e Spriani gli spara il capitano. Quando chiuderemo l'uscita sarà non l'uscita da là perché rientrano quelli che sono fuori, ma da, da queste porte allora ora iniziamo con la parte relativa alla musica. Il tema è sempre quello, andiamo dalla sovrapposizione della figura e sfondo alla ripetizione. Ringrazio, sperando quelli di essere visto meglio, perché poi lo conoscono. Quando dovevo pensare all'intervento di oggi, sapevo che saremmo arrivati un po' a questo punto, cioè che alla fine sul discorso musicale si tende un po' a glissare, perché ci sono alcuni problemi intrinseci alla musica, oltre probabilmente alla difficoltà che hanno i musicisti a esprimere questo tipo di visione. E quindi prima di passare a quella che è la mia esperienza come musicista nella lettura del volevo fare una piccola premessa sulle caratteristiche intrinseche della musica. La prima, che è difficile nel momento in cui se ne fruisce, la prima è che la musica scorre nel tempo e quindi la nostra fruizione di solito è quella dell'ascolto, e quindi rispetto alle tavole di Escher si fa molta più fatica a identificare alcune cose, che invece quando io ho davanti un quadro posso decidere io il tempo della fruizione di quest'opera d'arte, di questo disegno. E quindi quello che è il primo tema di oggi è che la musica è anche scritta, ed è sulla scrittura della musica Bach che io vorrei porre l'attenzione in questo momento. La seconda cosa è che purtroppo, questo è un giudizio personale, però 150-200 anni fa c'è stato il fenomeno del romanticismo che ha completamente stravolto quella che è la musica precedente al fenomeno romantico. Questa è una buona battuta sul romanticismo. Io sono organista e quindi in questo senso pago un debito, perché noi la musica la cominciamo dal 1200-1100 e quindi arrivare a Bach per noi è un punto d'arrivo, e si riconosce la grandezza di questo compositore rispetto a tutto quello che è stato precedentemente e poi quello che verrà dopo. Nei conservatori italiani si comincia, soprattutto per alcuni repertori del pianoforte, a studiare la musica cominciando da Bach. E quindi forse questo fa perdere il significato intrinseco che aveva l'essere musicista al tempo di Bach. In più Bach è stato particolarmente sfortunato perché morendo nel 1750, subito dopo, anzi già in quegli anni, cominciava a entrare Rococò, lo stile galante, e quindi Bach non era assolutamente noto come compositore, era noto come organista, anche lui all'epoca, e solo nel romanticismo, la Bach Renaissance comincia nel 1829, quando Mendelssohn, che aveva 20 anni, fa la prima esecuzione pubblica della Passione secondo Matteo di Bach. La prima biografia di Bach è del 1803, di Forkel, che poi magari cito brevemente. La cosa simpatica è che Bach, essendo figlio di una famiglia di musicisti, avendo avuto altri figli musicisti, i suoi stessi figli, che erano stati istruiti nell'ambito musicale del padre, da Johann Sebastian, si scusavano nel momento in cui andavano a cercare lavoro presso le altre corti, tra cui quella di Federico il Grande, che sarà il protagonista dell'offerta musicale, dicendo: sì, scusate per lo stile un po' antico, antiquato della scrittura di nostro padre, perché oggi la moda è completamente diversa. Il romanticismo, in questo senso, perché ce l'ha con il romanticismo, dovendo così dire quello che penso un po' a braccio? Perché ha completamente travisato l'idea di ispirazione musicale. Nel momento del romanticismo, per tanti aspetti, ma anche in musica, si ha l'immagine, il paradigma che io cito tutte le volte che parlo della musica, è quello di Frédéric Chopin, che viene abbandonato da George Sand, che va via, lui è triste, cioè il cielo si rannuvola, lui capisce che effettivamente sarà finita, il nostro loro amore andrà a esaurirsi, e quindi lui, triste, disperato in questa serata, no, col tramonto, improvvisa questo valzer che prenderà da allora il nome di valzer degli addii, adesso vi accenno solo brevemente. Questo per far capire il tipo di cosa. È stato un regalo che mi hanno fatto per la laurea, mi sono arrivato in medicina a Padova nel 1993 e l'ho portato con me a Vienna, perché sono andato a studiare a Vienna, organo, e fin da allora, in questa lettura che avevo fatto quando ero su, la sensazione che avevo, poi non so se sia reale, è che in realtà il libro di Hofstadter, che è molto complesso, però ha alcune cose centrali, per cui quella di una grande unità nel pensiero. Mi pare che anche adesso ultimamente Hofstadter abbia un po' cercato di sottolineare questa sua intenzione di non sminuzzare tutto in tante piccole cose, ma nella complessità comunque. Allora, i due concetti sono autoreferenza e Traianelli, mi pare siano concetti chiave dell'opera di Hofstadter. Citerò due esempi. Il primo è l'offerta musicale e il secondo sono le cosiddette valigie di Goldberg. Sarò contentissimo se dopo l'incontro di oggi tutti voi chiamerete le Goldberg le cosiddette variazioni Goldberg, perché non sono... Promettiamo, non sono, promettiamo. Adesso vi spiego. Scusate. Dobbiamo anche dire qualcosa del piano. Stiamo suonando un po' dopo. Dopo. Ecco, qui c'è il pentagramma. Questo ve lo metto è il tema regio, cioè la storia narra che Bach nel 1647, quindi a 62 anni, va a trovare il figlio che è organista, anzi Kapellmeister, presso la corte di Federico il Grande, quindi il più grande imperatore diciamo, dell'epoca. Grandissimo musicista, va lì ospite del figlio, quando l'imperatore sa che c'è il vecchio Bach, perché tutta questa generazione di strumentisti lui era il vecchio Bach, grande organista, lo invita, perché tutte le sere faceva delle serate di musica da camera per i trattenesti, e gli sottopone questo tema, presunto di invenzione di Federico il Grande, a cui chiede a Bach di improvvisare. Bach improvvisa questo ricercare tre voci, che poi appunto andrà a far parte dell'offerta musicale, ma qui è già la cosa centrale. Cioè, dopo questa improvvisazione, siamo a maggio del 1747, Bach torna sui suoi passi, torna a dove era Alizia, e decide, quello non aveva senso, quella che era stata l'improvvisazione, lui vuole scrivere un pezzo di musica su questo tema. Scriverà l'offerta musicale che poi dagli studi sapremo che proprio per l'attitudine che avevano a unire musica con la retorica, infatti all'epoca si chiamavano i musicisti musicus poeticus, l'offerta musicale non è che la trasposizione in note dell'istruzione oratoria di Quintiliano. Il tema è questo, no? È necessario, secondo me, fare un passo indietro. Cioè, all'inizio della stampa di questo pezzo, lui in realtà, appunto, a proposito di acrostici, acronimi, eccetera, se vedete le lettere maiuscole, questo regis, ius cantio, et reliqua canonica, arte resoluta, le sono Richard Carr, in cui dice che prende su ordine del re, prende questo canto, lo risolve con, diciamo, sia sviluppa questo canto, in più anche lo sviluppa secondo l'arte dei canoni, diventa ricercare. Questo perché è importante? Perché in realtà è fondamentale che noi ci capiamo su un concetto di alfabetizzazione, mi scuso, sarò brevissimo, però è fondamentale, perché all'epoca, proprio perché l'abbiamo perso oggigiorno, dire ricercare, dire canone, dire fuga, erano cose completamente diverse. L'altra cosa che vi chiedo come piccolo sforzo di alfabetizzazione è quello di che cos'è un contrappunto e, alla base di questo, che cos'è il concetto di armonia e melodia. Melodia è tutto ciò che è singolo orizzontale. Questa è una melodia di Beethoven. Armonia, quindi una linea melodica, una nota dopo l'altra, in successione temporale, un'orizzontalità. La armonia invece è una compresenza di due o più note nello stesso momento, è una verticalità. Il contrapunto che cos'è? Il contrappunto è una tecnica compositiva che nasce, diciamo, con i fiamminghi nel 300-400, diciamo dopo, anche prima, forse nel 200 con la scuola di Notre Dame, in cui le singole voci, quindi delle linee melodiche, in realtà vengono sovrapposte e quindi nell'essere sovrapposte generano un discorso armonico. Però quello che è caratteristico del contrappunto è la individualità della linea melodica. Ciascuna voce è autonoma. Non c'è come ci sarà poi nella musica, adesso moltissima musica 800, quelle che sono le canzoni, c'è cioè il tema della canzone con gli accordi sotto. Quello non è contrappunto. Contrappunto vuol dire che tutte le voci, soprano, contralto, tenore e basso, hanno una loro bellezza, una loro individualità. Allora, hanno una caratteristica in comune, ricercare canone e fuga, l'unica, che comincia una voce da sola e poi le altre seguono. Però, il ricercare è costituito in modo tale che c'è un tema, che chiamiamo A, che si ripresenta all'interno della composizione. La prima volta che si ripresenta nelle voci successive è identico, poi dopo di questo si può ripresentare in maniera, tra virgolette, random, non c'è una regolarità né nel termine della cadenza né nel termine del discorso armonico, che però lo rende sempre molto riconoscibile. Vi prego di notare che qui A, una volta è sotto B, una volta è sotto D, una volta è sotto C. Il canone è completamente diverso, il canone comincia sempre con la da solo, però tutta la struttura lineare è seguita dall'altra voce. Quindi ad A segue A, a B segue B, a C segue C, a tal punto che la scrittura del canone è una voce sola. Io basta che scriva la prima riga, poi so dove entra la seconda voce, non ho bisogno di riscriverla. Okay? La fuga è molto più complessa. La fuga all'epoca di Bach era considerata qualcosa di più importante, più anche commerciale, tra virgolette, perché rispettava una struttura armonica diversa. E il tema A della fuga si chiama soggetto, che prevede una sua riproposizione a un grado preciso della scala, alla sua quinta, la dominante, il quinto grado, ed ha come caratteristica quella di essere accompagnato sempre dal controsoggetto. Ok? Dopo questa struttura, dopo la presentazione iniziale che si chiama esposizione, ci sono i divertimenti. Qui ve l'ho messo per far vedere che c'è questa distanza e poi la parte dei divertimenti, cioè la parte libera prendendo elementi dal soggetto. La parte finale della fuga, che è sempre di solito in tre parti, quindi esposizione e divertimenti stretti, cosa vuol dire stretto? Vuol dire che io ripropongo il soggetto, però la risposta, anziché entrare dove era qui, entra prima, anticipo, è come se stringessi in un incalzare ritmico, non è un accelerando, è un incalzare ritmico dell'entrata soggetto-risposta. Ok? Volevo farvi l'esempio, ma salto, vado avanti. Una fuga famosa, molto famosa, è... Questa è la fuga della toccata e fuga della minore, che ve la faccio sentire perché lo potete trovare in tutti i peggiori telefonini perché è molto conosciuta, molto suonata nei pezzi d'organo, quelli più famosi, però è piena di eccezioni. Volevo solo farvi sentire come in realtà all'entrata del soggetto la risposta. Quindi soggetto e risposta. Messo assieme sotto la risposta ci sarà il controsoggetto. Divertimento. Ok, hai entrato di nuovo il soggetto con lo spazio di tutto. Bene? Canoni, dobbiamo parlare dei canoni oggi. Questo è il modello più tipico di canoni, in cui dopo una battuta entra la seconda voce. Però in realtà io potrei avere un altro modello di canoni, in cui non entra dopo una battuta, ma può entrare dopo. Parlando con matematici, ovviamente io indico A e A come cose esattamente uguali. Se io entro sul Do, alto uguale alto. Però potrei fare una cosa diversa, lo chiamo A', mi pare che sia corretto. In questo A' può voler dire, esatto, su un altro grado, affinché all'unisono la seconda, la terza, la quarta, la quinta, a una distanza diversa, oppure, in omaggio anche a Escher e a Hofstadter, posso dire se il framartino ho quattro note di successione una verso l'altra, un intervallo di seconda, salendo, posso fare la stessa cosa discendendo, si chiama per moto contrario. Ho lo stesso elemento A, però è invertito. Oppure potrei fare il cosiddetto il canto di cui parlavamo prima, che è il retrogrado. Se io faccio, questo è do re mi do, se io faccio, passo dall'ultima nota e vado indietro, questo è il retrogrado. Lo chiamerò A'. Oppure posso fare, vedete, esatto questo qua, il canone inverso, in cui la G torna qua, la F torna qua, ho questo incrocio, uno va avanti e l'altro va indietro. Fine la premessa, proviamo ad andare avanti. Allora, l'offerta musicale l'ho riassunta con un'immagine di Escher. Questo mi interessava perché ho dovuto scegliere, c'erano già altre immagini, mi sembrava molto bello perché in questo... questa tavola, in realtà questo paesaggio è esattamente uguale a questo, solo che la prospettiva anziché dal basso è dall'alto. Quindi c'è qualcosa in questo, e questo sarebbe il discorso dell'autoreferenza di cui parlavo prima, c'è qualcosa in questo senso che mi genera questo paradosso visivo, speravamo prima e in musica? Allora, secondo me Hofstadter ha avuto un'intuizione geniale nel momento in cui ha riportato questo canone, che è a pagina del libro, perché qua non si vede tanto bene. Però, questo canone è verso la fine, sostanzialmente è un canone dell'offerta musicale, caratterizzato dal fatto che c'è il tema regio, leggermente variato, con un accompagnamento a canone della voce sotto e sopra, lui mette D a T perché appunto sarebbero Bach, Achille e la tartaruga, in questo caso non è basso, alto e tenore. E la caratteristica di questo canone si chiama per augmentationem motu contrario. Però, se è possibile parlare con questo Hofstadter, c'è un errore enorme della scrittura, perché questo non l'ha scritto così Bach. Se fosse scritto così, la cosa, l'errore è che io penso che Bach lo scriva con i tre righi, mettendo in mezzo il tema regio, e sopra ci costruisca il canone con la voce, diciamo, veloce e quella rallentata per augmentazione molto contrario. Non è così. Vi ho portato l'originale, che si potrà mettere forse in una futura edizione, che è questo, che è molto più interessante. Perché è qui che comincia l'autoreferenza nella scrittura bachiana. Cioè, voi vedete, c'è il tema è questo qua. È scritto questa chiave, la chiave di Do. Comunque questo è un Do, si Do, Re, Mi. Sono quelle del tema regio che sentivamo prima. E lui scrive questo accompagnamento. Questo è il canone. Questo segno qui, che Bach scrive, vuol dire che qui, a questo punto, entra l'altra voce, che è per argomentazione contrario motu. Se non ci fosse questo, il canone si chiamerebbe canone enigmatico, perché è da indovinare dove entra il pezzo. Ma la chiave di volta, quella che diciamo era il pavimento, questo che era l'elemento del pavimento che diventa tetto e pavimento, in questa scrittura bachiana è evidente. Vorrei interrogare, ma so che non posso. Eccolo qua. Non so se si vede. È una chiave di violino rovesciata. Questa chiave di violino rovesciata mi dà ovviamente la direzione della lettura del canone, però è rovesciata. Quindi col computer l'ho girato, eccolo qua. Ok? Primo passo. Secondo passo, eccola qua. Questa è la chiave di violino girata, girando la pagina, e vedete che è sol fa mi re do. Ed è esattamente quello che voi trovate qua, in questa luce qua, che vi andrete a vedere. Okay. Questa è l'autoreferenza bachiana, cioè la perfetta commistione tra forma e contenuto. Questo è un elemento caro. Rimane il problema di capire come Bach scrive questa cosa qui. la cosa che a me più fa dolore è che sembra che in questo modo la scrittura sia legata a un qualcosa sul tema regio in cui scrive, ma non è possibile. Il fatto stesso che lui l'abbia scritta in questo modo qui postula l'esistenza di un modo di scrivere per cui non ha scritto le tre voci e dopo la ridotta a due, l'ha scritta già così. Quindi ci sarà sotto una struttura che guida la scrittura bacchiana. E qui arriva l'altro aspetto, l'altra figura di Escher, che è questa qua. Parliamo delle variazioni Goldberg, in questo senso, per spiegare meglio la cosa. Cioè, nel momento in cui Bach scrive le variazioni Goldberg, e le cosiddette variazioni Goldberg, in realtà è perché un suo allievo, questo narra la storia, no? La prima biografia di Bach, un suo allievo tale Goldberg, appunto Gottfried Goldberg, gli aveva chiesto una composizione perché lui lavorava presso l'ambasciatore russo a Dresda, che era von Kaiserling, che soffriva di insonnia. A questo punto lui gli aveva fatto tutto il repertorio che conosceva, aveva scritto quello che poteva, non riusciva più a gestire questo suo mecenate, diciamo, e quindi chiede al suo maestro, per favore scrivimi qualcosa che intrattenga nelle ore di insonnia notturna il mio capo. Bach allora avrebbe scritto le variazioni Goldberg, anzi, avrebbe scritto un'aria con diverse variazioni per clavicembalo a due tastiere, una delle poche volte in cui Bach scrive clavicembalo e non clavier, clavicembalo e non clavier, quindi le Goldberg vanno fatte al cembalo, secondo me, e diventate poi variazioni Goldberg perché Goldberg gliele aveva chieste. In realtà, all'età in cui succede questo, Goldberg aveva 13 anni. Quindi è impossibile, anche questo è stato fatto ad arte dai figli di Bach, perché Forkel cita che questo episodio l'ha riferito Carl Philipp Emanuel Bach. Perché? Perché di fondo non capivano cosa c'era dietro questa scrittura. È una scrittura talmente difficile che si inventano l'immagine di uno che di notte deve impegnare la mente, pur di, perché era talmente difficile, non riusciva a farlo. Perché questo mi è di aiuto? Vado rapidamente verso la fine. Perché lo dice Hofstadter stesso, no? Quando parla delle mani, poi dice questo strano anello, in realtà funziona perché alla base c'è un qualcosa, cioè Escher stesso che lo disegna, che mi genera questa cosa poi autoriverberante. E Bach? Eccolo qua. Ovvio ho messo questo come per piccolo accenno ai quadrati magici. Ecco, giusto per non scendere sulla è qualcosa di scientifico in qualche modo, cioè noi leggiamo tutte le righe di questo quadrato a 5, per cui questa storia del famoso contadino Arepone, io lo posso leggere, questo sato, rare, potente, opera rotas, sia così, sia in verticale, sia di qua, sia in su, in ogni senso. Tra l'altro è interessante perché appunto prima parlavamo di cose palindrome, è palindromo perché la N è la cosa centrale, è talmente palindromo che se voi prendete le lettere fino alla N, è pater noster a alfa e o omega, quindi ha molto significato questo tipo di quadrato magico, che però io posso tradurre anche in numeri. Il quadrato magico vuol dire che io questa cosa qui la posso, quella somma di ogni riga e ogni colonna è sempre uguale. E in musica? In musica succede esattamente la stessa cosa. Se io al numero sostituisco la nota, parlando in questo caso di un accordo di settima diminuita, ho queste cose qui. Questo è un quadrato magico che io se poi sviluppo, cioè se io segno nel corso del tempo le varie note, una alla volta, ottengo questo. Ottengo una linea melodica, ciascuna di queste è una linea melodica, e questa è una struttura che mi garantisce una griglia all'interno della quale io so che qualsiasi nota scriva all'interno di questa griglia sta come canone. Perché genera lo stesso quadrato magico. Comunque lo giri, funziona. Il messaggio è un po' semplificato, ma voglio che sia questo. Se io però le Goldberg parlano di un'aria con diverse variazioni, se vi chiedessi cos'è che varia nelle Goldberg, cos'è che varia? Cos'è che varia? Non la melodia, non questo, no? Perché poi c'è anche l'altro, fa così. La melodia. Quello che varia nelle Goldberg è il basso, questo è l'altro segreto che vi svelerò. E se noi trasformiamo le note del basso in una linea melodica, e poi questa linea melodica la trasformiamo in una serie di numeri, e questi numeri ci divertiamo a costruirli sempre all'interno di un quadrato magico, come successioni, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, una serie di note qualsiasi, vi ho fatto due esempi, non potrebbero essere qualsiasi. Se le metto insieme posso costruire delle strutture che un po' alla volta si allargano. Rapidamente, cosa succede? Se io prendo, qui ci sono altre possibilità, adesso focalizziamoci solo su A e B, se io prendo A e B, vedete, posso costruire un diagramma di apertura per cui questa stessa linea melodica, solo sfalsata nel tempo, mi genera una struttura che so che armonicamente tiene perché è generata all'interno del quadrato. Questa è la relazione armonica che viene a generarsi. E quindi se io prendo, questa è quella che vi ho appena suonato, no? L'inizio dell'aria del Goldberg, se io prendo e vi ho detto che è il basso, queste sono le prime note delle otto battute, sol, fa, mi, re, si, do, sol, sol, fa, mi, re, si, do, re, sol, lo metto secondo la griglia di questi quadrati, vi faccio vedere anche i cerchietti così riconoscete le note, non vi sto dicendo cose non vere, sol, fa, mi, re, si, do, re, sol, ho costruito su queste note una griglia inossidabile. Qui posso costruire tutti i canoni che voglio, perché la grandezza delle Goldberg è che lui scrive questi canoni, scrive 9 canoni, queste variazioni, ogni canone a distanza sempre maggiore, canone all'unisono, canone alla seconda, canone alla terza, canone alla quarta, fino al canone alla nona. Per farvi capire come sono diversi, perché dopo non è che siano tutti uguali. Primo canone. C'è il tema che torna, quello alla seconda, questa è la seconda, ma li fa anche in minore, ad esempio molto bello questo qua, la variazione 18, scusa, questo è in maggiore, è completamente diverso. Usando questa griglia, questo è quello che è la prima parte dell'area, questa è la seconda con la stessa griglia. Questo è lo schema, questo ve l'ho riportato, sono le battute dell'area delle variazioni Goldberg, questo è lo schema armonico che si va generando, parlo dal sol, si genera questo, la seconda nota è il fa, faccio questo, non vi ho messo le altre per non fare confusione, ma immaginate quanto si viene a creare, e quindi che cosa ottengo? Ottengo questo schema qua. Questo schema qua, sol, fa, mi, re, eccetera. In realtà se io torno all'origine, se lo trasformo in numeri e considero anche l'altezza del suono una variabile importante, quindi non ho solo note da 1 a 7, ma prendo le due ottave, arrivo da 1 a 15, ho questa cosa qui. Ok? E questo che cos'è? Questa è la tavola mirifica di Athanasius Kircher, in cui lui aveva non fatto altro che esplorare teoricamente tutte le possibilità di contrappunto. La cosa che mi piace, a questo punto chiudo, quello dopo aver fatto tutto questo discorso, chiudo sempre con una frase di un fisico abbastanza famoso, che era anche un ottimo violinista, che era Albert Einstein, che suonava Bach, lui appunto lui diceva sempre, tu Bach lo puoi analizzare, lo puoi suonare, lo puoi vivere, lo puoi frammentare, lo puoi digerire, lo puoi fare. L'importante è che non ti sogni di cercare di descrivere la parola della musica di Bach. E allora chiudo per voi questo. Volevo farvi sentire, proprio perché anche Schoenberg, quando parla di quest'area, delle variazioni Goldberg, nel suo trattato di analisi armonica, dice di questo mistero che non è ancora parzialmente svelato. Vi faccio sentire, se abbiamo 2 minuti di tempo, l'aria, questo è il nucleo del mistero. Chiederei, se possibile, di chiudere il microfono, perché già l'acustica di questa stanza è pessima. Se più c'è... infatti. Basterebbe spegnere la luce, che si spegne il microfono. volevo solo dire una cosa, che il pianoforte che ha fatto Andrea non è un banale pianoforte elettronico, è un modello di ricerca che abbiamo sviluppato al Dipartimento di Informatica, lui è stato il dottorando che ha sviluppato una buona parte del progetto. Il pianoforte non cerca di simulare il suono, ma risolve in tempo reale equazioni differenziali che rappresentano la fisica del martelletto sulla corda. Quindi è un modello completamente diverso da quello che è un banale, normale pianoforte o tastiera elettronica. Si cerca di simulare quello che è la struttura fisica attraverso una simulazione informatica. È un altro stravamento, come dire. Quindi è un modello di ricerca, è qualcosa che esiste solo qui a Verona, è stato sviluppato proprio in questi giorni e mesi, ed è qualche cosa che speriamo abbia nel futuro, tipo dei compositori. Io penso che non ci sia tempo per aprire un dibattito, perché vedo che c'è una... Stanno premendo i successivi. Quindi vi ringrazio molto per la situazione. E...